Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Siamo in sei, su un camper a noleggio malandato. E io rivivo la sensazione di 15 anni fa, quando un camper mi portava verso il divertimento. Ma questo viaggio serve per conoscere la memoria. La meta è Auschwitz, Polonia. Ciao, sono Mirko, ho 38 anni, vivo a Castel Bolognese, un piccolo paese in provincia di Ravenna, faccio l'agente di commercio. Ieri leggevo una cosa riguardo all'infanzia e alle storie. Leggevo che i bambini, i cui genitori raccontano spesso la storia della loro famiglia, i cui genitori quindi creano una narrazione legato a chi erano loro, come si sono incontrati, cosa facevano i nonni, le cose buone e le cose cattive della famiglia, le cose positive e le difficoltà, e lo fanno spesso di raccontare ai propri figli la storia della famiglia. Ecco, quei bambini saranno persone più consapevoli, saranno persone con un'identità più chiara e che sapranno probabilmente distinguere meglio le cose buone da quelle cattive, proprio in base alla storia della loro famiglia. Buongiorno a tutti, sono le 16:09 in punto, oggi è il 27 di gennaio del 2014, ve l'avranno già raccontato tutti se ascoltate la radio, perlomeno la radio che se ne interessano, se leggete i giornali o se sentite qualcosa o guardate qualcosa alla televisione. Oggi è il giorno in cui si ricorda la Shoah, è il giorno della memoria e anche noi lo facciamo a modo nostro, ovviamente mantenendo quello che siamo soliti fare, cioè raccontando storie. La memoria probabilmente si porta avanti in diversi modi. Uno dei più semplici, dei più immediati, anche dei più divertenti è quello di raccontare storie. Lo dicevo prima, legato alle famiglie, cioè le famiglie che raccontano la loro storia generano dei figli probabilmente più consapevoli. Il fatto di continuare a raccontare che cosa succede, raccontare proprio delle storie, anche non per forza di persone che hanno vissuto quell'esperienza, anche se loro ha voglia sentirlo da un testimone diretto, è la cosa più toccante. E tutte le volte che mi è capitato è rimasto come un marchio da qualche parte in fondo al mio corpo. Però sentire una storia come quella di oggi, come quella di Mirko, che parte con una storia quasi goliardica di sei amici che sono su un camper e hanno il clima che c'è quando sei amici, sono su un camper, vanno in vacanza, gli succedono le cose che succedono quando sei maschi, sono su un camper e fanno casini, e poi invece vanno a visitare un posto che rappresenta il luogo della memoria, il luogo di cui parliamo tutti quanti oggi. 349 238 66 66. Oggi parliamo di memoria e lo facciamo riguardo appunto alla biografia di ciascuno di noi, quindi non parliamo solo di campi di concentramento o di lager come fa Mirko nella sua storia, ma parliamo di qualsiasi avvenimento voi abbiate voglia di ricordare. Riguarda la vostra vita, provate a fermarvi 5 secondi, c'è una cosa che vi fa piacere recuperare dalla memoria, una piccola storia, un piccolo episodio che quando siete un po' giù di morale andate a visitare, con la mente andate là, perché semplicemente è un luogo della memoria, è un luogo della vostra storia che quindi racconta qualcosa di voi. È quello che facciamo tutti i giorni, una piccola storia che racconti qualcosa di voi. Se vi viene in mente, 349-238-6666 tramite SMS o altrimenti tramite Twitter o Facebook. Voi siete qui, R24 per Twitter, voi siete qui, Radio 24 per Twitter. Ad esempio, Danila scrive: voglio ricordare il giorno in cui abbiamo scoperto di aspettare un bambino, un mix di emozioni incredibile, questa è una cosa abbastanza comune a moltissimi. Simone invece: voglio ricordare analisi 1, esame al Politecnico di Torino. E poi ancora Alessandro: voglio ricordare il primo bacio. Chiara: voglio ricordare dove ho messo quella lettera che sto cercando da anni. E poi ancora Michele: ricordo un amore durato 9 anni e poi smarrito. Marina: ricordo i pranzi con gli zii che mi raccontavano la guerra vista dai loro occhi di ragazzi, la guerra che ho imparato prima che dai libri, dalle parole della mia famiglia. 349-238-6666. Raffaele: io oggi voglio ricordare il giorno in cui mi sono laureati in bocconi e il viso fiero di mio papà, che per me è impagabile. Un piccolo luogo della vostra memoria che oggi volete tirare fuori. 349-238-6666, altrimenti, come vi dicevo prima, Twitter e Facebook. Noi continuiamo a raccogliere le storie, ve lo ricordo tutti i giorni, ma visto che siamo qui a raccontarle è giusto anche ricordarle. Voi siete qui, chiocciolaradio24.it. Un racconto, una storia che dica qualcosa di voi. Oggi la storia la racconta Mirko e parla di questo giorno, parla di un luogo e del giorno della memoria. La compagnia è stranamente assortita. Il tecnico, il cuoco, quello che sa le lingue, quello che spara cazzate e tiene alto il morale delle truppe, quello che sembra non serva a niente, e me, ma in realtà è quello da tirare in mezzo quando ci si annoia, quello che ha organizzato il viaggio, quello che gestisce i documenti per il camper. Siamo sei, su un camper a noleggio malandato. Io rivivo la sensazione di 15 anni fa, quando un camper mi portava verso il divertimento, in una delle mie prime vacanze con gli amici. In realtà però questo viaggio serve per conoscere la memoria, quella parola tanto sentita, tanto usata, senza mai capire cosa significhi davvero. Ma non ora, non dopo questa esperienza. La meta è Auschwitz, Polonia. È stata un'idea lanciata da uno del gruppo di andare in camper, di fare questa gita da giovani, e si è andati così. Lo spirito è quello di volere provare a capire, sapendo già che sarà molto difficile. Il viaggio è un delirio. Nonostante il tecnico, il tragitto non è chiaro e quello simpatico, all'altezza di Vienna, riempie il serbatoio dell'acqua di gasolio. Saranno quindi tre giorni senza docce e forse senza potersi lavare i denti. Ma nessuno si arrabbia. Ci ridiamo su e si va. Auschwitz è un campo di lavoro della Seconda Guerra Mondiale, collegato al campo di Birkenau, autentico campo di sterminio. Entrambi edificati dall'esercito tedesco con la finalità della selezione della razza. Tutti lo sanno, qualcuno lo nega, ma spero che sia perché non vuole accettare e si difende, a modo suo, dalla cosa più terrificante che sia mai accaduta. Sono le 10:30, la visita è guidata. Abbiamo cuffie per sentire la guida. Inizia il nostro itinerario agghiacciante nella storia di 70 anni fa. Chi ci accompagna è un ragazzo polacco, avrà forse 25 anni, comunque meno di 30 sicuramente. Parla italiano meglio della media dei miei 5 compagni di viaggio, ma non so perché sono un po' diffidente. Penso che sia un po' troppo giovane. Eppure alla fine di questa giornata mi insegnerà qualcosa che mai dimenticherò. Il percorso è calmo, i visitatori mantengono un silenzio religioso, sicuramente per il rispetto del luogo in cui si trovano, per le atrocità che sono state compiute. È un susseguirsi di emozioni devastanti, pareti e pareti di foto, data di arrivo, data di morte. È assurdo, non si trova nessuno che in questo posto abbia resistito almeno un anno. Centinaia di foto, data di arrivo, data di morte. E poi si va oltre, stanze piene di capelli, stanze di scarpe, di stoviglie, di giocattoli, di ogni bene che veniva prelevato e venduto. Non c'è bisogno della guida, ogni cosa che vedi l'hai letta nei libri di storia, l'hai sentita nei racconti dei tuoi nonni. Ma essere lì, in quel momento, te la fa rivivere. Poi Birkenau, dove arrivavano i treni e i prigionieri venivano smistati, migliaia ogni giorno, e tutti destinati alle camere a gas prima dei forni. Migliaia, per anni. 1000 al giorno. In un anno 1000 al giorno sono circa 350.000. A Birkenau ne sono stati uccisi 1.500.000 in circa 4 anni. C'era abbastanza silenzio, c'era voglia di riflettere un po'. Un po' di malinconia, la voglia di stare un po' in silenzio, di stare magari un po' da soli a pensare, che poi dopo una mezz'oretta c'è passata via. La visita finisce, sono passate 5 ore ma non riusciamo ad andarcene. Abbandonare questo posto ti fa sentire male. È come lasciarsi alle spalle quello che è successo, è come rimuoverlo. È qui che questo giovane polacco mi insegna una cosa che non dimenticherò. La memoria. Quello che ho visto è accaduto. Non posso farci nulla, se non ricordarlo. Vivere questa esperienza ti obbliga a trasferire questa memoria. Si è già raccontato, si è già scritto, si è girato, si è sentito, letto e visto. Eppure ogni volta è difficile ricordare. E forse a questo servono giornate come questa qua. A far sì che ricordare tutti insieme sia un po' meno difficile. Mi piace lo spirito quasi goliardico con il quale Mirko e i suoi compagni decidono di fare un viaggio tra amici in camper verso un ex campo di concentramento. Leggendo la sua storia mi è venuto in mente uno spettacolo di qualche tempo fa, tratto da un testo degli anni 60 scritto da un autore tedesco, si chiama Rolf Ockhut e si intitola Il Vicario. Fu un testo molto contestato in Italia perché è piuttosto impietoso nei confronti di Papa Pio XII e del suo silenzio nei confronti dell'avvento del nazismo anche in Italia. A circa metà di quel testo però c'è un racconto che c'entra poco con quella polemica. È un racconto in prima persona di una ragazza romana che viene deportata in Germania in un campo di concentramento. E durante questo suo viaggio, mentre si trova sul treno, rivolge un pensiero al proprio fidanzato che lascia a casa, chiedendogli di dimenticarla. Ma non subito, non immediatamente. Di ritrovarmi, amore, lascia ogni speranza. Tu non mi troverai mai più, per quanto cerchi. Ma non cercarmi troppo. Prenditi una ragazza che ti dia più di me. Dimentica, siate felici assieme. Ma non aspettate troppo per l'amore. Non perdete indugiando il vostro giorno come l'abbiamo perduto noi nella campagna. Non perdete la sera in riva al mare quando la spiaggia, la nera sabbia di Ostia è ancora calda, un letto per giacervi. Ma di noi non scordare del tutto, non così presto. Il buio attorno e noi dentro, protetti. Il suono delle onde, le tue parole e tutte le nostre sussurrate tenerezze, spazzate via sull'acqua dove nessuno poteva udirle più. Contro il tuo corpo mi sentivo tornare piccola, protetta come non mai, sicura, fino a che m'ha aperto la tua bocca. Perché non fummo subito uno dell'altro? Perché non fu subito nostra la notte avuta in dono? Perché, amore mio, perdonami, t'ho fermato le mani. Come vorrei che fossi adesso qui accanto a me. Ho paura, mi sento abbandonata. Potessi essere ancora con te su quella spiaggia, cosa importa? Venisse pure il fortunale a rapirci lontano, sulle onde, ma uniti, assieme. Sono così sola. Torna una volta, ad Ostia. Vai e prendi nelle tue mani sabbia di Ostia e gettala nel mare. Grida il mio nome, come quella volta, ad Ostia. Bellissimo ragazzo Mirko nella foto che ci ha mandato e invito tutti, non so, visto che è un bel ragazzo inviterei tutte le ragazze, ma mi sembra una cagata, per cui mi invito tutti ad andare a vedere la foto. Ha i capelli corti, degli occhiali con la montatura scura e gli occhi azzurrissimi e non saprei dire perché, ma ha una faccia familiare. Pronto Mirko? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, tu? Bene, te lo dice nessuno che hai una faccia familiare, nel senso che hai una faccia hai un viso rassicurante. No, dici? Non te l'ha mai detto nessuno? Ma non è, no. Ma non è un'offesa, anzi è un complimento. Cioè, sembra una faccia amica, ecco. Forse perché banalmente c'era una teoria che diceva che alcuni visi ricordano nella nostra memoria qualcuno che c'è stato vicino. Vabbè, ma chi se ne frega. Mirko, cosa fai nella vita? Da agente di commercio, ahimè. Ahimè perché è un momentaccio. Sì, vabbè. Che cosa commerci esattamente? Ma più che altro ceramica, pietra, pavimenti, rivestimenti. Ma sei stato anche tu alla fiera degli agenti di commercio che c'era qualche tempo, quando era dicembre, gennaio? Sì, dicembre. No, non sono stato. Non ci sei passato. Sei di Ferrara, Ravenna? Perdona. No, Ravenna. Provincia di Ravenna. Quando hai detto Ferrara sembrava una roba brutta. No, ma noi romagnoli siamo abbastanza orgogliosi e campanilisti per questo. Quando risale la storia? Quando risale il viaggio ad Auschwitz, Mirko? La primavera scorsa, l'anno scorso. è davvero voi a un certo punto eravate tu, lo smilzo, il grasso, tu e i cinque amici avete deciso, pigliamo un camper e andiamo ad Auschwitz. Non è proprio, diciamo, normalissimo, no? No, vabbè, eravamo tutti interessati alla cosa, insomma, idee simili, e quindi si è deciso così. Tra gli altri non era la prima volta che gli altri andavano, quindi, cioè non ad Auschwitz ma ad altri campi. Sì. Quindi insomma... Quindi diciamo era una cosa che proprio avevate deciso di fare insieme e in camper? Sì, il camper è venuto in un secondo tempo, comunque sì. Quanto è durato, quanto è durato il via? Quanto ci si mette ad andare in camper in Polonia ad Auschwitz? Dipende, noi ci abbiamo messo un sacco di tempo, altri fanno prima probabilmente. Una ventina d'ore circa. Cioè, quanti chilometri sono? Sai che non lo so, 1.300 forse. Ok, e quando siete usciti, mi dici cosa avete fatto? Che ora è finita la visita più o meno? Nel pomeriggio, metà, giusto? Sì, metà pomeriggio. Sì, in quel pomeriggio lì, cioè quando siete usciti dal campo di concentramento, siete risaliti sul camper? Ci siamo messi alla guida, siamo andati a Cracovia poi la sera, e un po' in silenzio, e poi si è ripartito col clima da vacanza. Cioè poi siete stati un po' in giro ancora, intendo dire... Sì. Quella sera lì, poi il giorno successivo Bratislava, poi siamo rientrati. E qual è la cosa, diciamo, che quando pensi a quel viaggio, quando pensi a quei giorni, la prima cosa che ti viene in mente? Un'immagine, un pensiero, la parola della guida? Ma sicuramente quella cosa che ho scritto anche nel racconto, a proposito della memoria. Questa è la cosa che mi ha più colpito e che ho imparato, diciamo così. Visivamente, sicuramente Birkenau è una cosa impressionante. La grandezza del campo, poi quando cerchi di rivivere, di immaginarti quello che succedeva nelle proporzioni, è una cosa che ti lascia senza fiato. E le visite sono solo guidate o puoi arrivare e farti un giro? Come funziona? C'è un biglietto ed entri solo se c'è una guida? No. Se ricordo bene, allora la mattina ci sono le visite organizzate con le guide, quindi traduttori, eccetera. E quindi sì, fai un biglietto a un costo comunque simbolico. E dal pomeriggio invece credo che sia entrata libera e si può, insomma, può andare chiunque gratuitamente. Mirko, dove sei in questo momento? Sono fermo in auto in un parcheggio. Che stai andando da? Stai venendo da e vai dove? Ho una visita a un cliente tra un'oretta, sono sempre in zona Ravenna e poi finisco la giornata. E cosa vendi? Cosa cerchi di piazzargli oggi? Guarda, niente, perché tanto... Meglio che non lo dica, poi non mi paga, quindi forse meglio che va bene. Non gli venda nulla. Va bene. Cioè, c'hai una famiglia, Mirko? Hai una moglie, una fidanzata, dei figli? No, sono single. Sembra incredibile che tu sia single. Cioè... Sono single da poco, via. Ah, ok, va bene, perfetto, l'ho pestata. Esattamente, no, proprio tranquillo. In chiusura. Mirko, tranquillo. Ti ringrazio molto per la storia che ci hai mandato, che ci ha dato la possibilità di parlare a modo nostro oggi di questa giornata. In bocca al lupo per tutto. Grazie, crepi il lupo. A presto, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Luca mi scrive al 349-238-6666. Ciao Matteo, mio nonno Ettore, il marito della sciura Elisa... Lo scrive come se la conoscessimo la sciurrita, forse ci aveva mandato una storia. Dopo l'8 settembre venne caricato su un treno con una scusa. Poi lui e i suoi commilitoni vennero deportati in un campo di lavoro per 18 lunghi mesi. Con questo voglio ricordare le storie di famiglia che mi raccontava mia nonna. Ora, dall'alto dei suoi 98 anni, ha deciso di tacere, Luca. Mi piace l'idea della nonna che a un certo punto dice, sai cosa? Adesso basta, me ne sto un po' zitta. Volevo ricordare mio nonno omonimo, che mi raccontò la guerra e il nazifascismo prima di studiarlo sui libri di scuola. Proprio 3 anni fa stava passando sulla Terra le sue ultime ore, immagino in questi giorni. E non so, Francesco, tassista di Genova, non so quanti anni abbia Francesco, però la nostra, ogni tanto lo diciamo quando arrivano le storie di guerra dei nonni, no? Moltissimi episodi raccontati dai nonni arrivano a questo programma, che noi siamo, forse noi inteso, guardo noi in questa stanza e di là dal vetro, tranne Margherita che c'ha anni di meno, ma io, Paolo, Tiziano, siamo una generazione tra i 35 e i 40 che forse sarà l'ultima ad avere dei nonni che hanno vissuto quell'epoca là, hanno vissuto quei periodi, quella vita, e l'hanno vista coi loro occhi, l'hanno provata sulla loro pelle quell'esperienza lì. E siamo fortunati da questo punto di vista, e probabilmente giornate come queste servono a far sì che anche chi non ha quei nonni, anche chi non ha i parenti che hanno vissuto quelle cose, continui comunque a sentire quelle storie, perché le storie raccontano meglio di qualsiasi messaggio che cosa è stato, che cosa si spera ovviamente non sia mai più. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono appunto Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Hina. Voi potete ascoltare questa puntata e tutte le altre in podcast attraverso il sito di Radio 24 nella sezione podcast. E invece una cosa per tutti quelli che ci chiedono spesso: ma quella musica che cos'è, dove la prendi? Le trovate sulla nostra pagina, andate sulla pagina relativa alla puntata del giorno, ad esempio quella di oggi si intitola Memoria, c'entrate, ci sono la foto che vi racconto e soprattutto i brani musicali che mandiamo. Grazie a tutti, grazie soprattutto a Mirko, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Massimo, sono di Napoli, la storia di domani è la mia e parla di una rapina. Questa è la mia storia e io sono qui.